Riprendiamo la linea, ore 11:21, siamo al telefono con un compagno di Ostia. Pronto, buongiorno, ci senti? Buongiorno, Buongiorno, buongiorno, sento. allora, un collegamento per spiegare insomma meglio la situazione che si è creata ieri a Ostia. Ne abbiamo parlato accennandolo in rassegna stampa. Chiaramente, insomma, sui giornali le notizie non è che fossero proprio precise, ma insomma, solitamente il nostro atteggiamento è proprio quello di non fidarci e chiedere direttamente ai compagni e alle compagne del territorio. Allora, com'è andata questa situazione ieri, David? Sì, diciamo c'è stato questo tentativo di aggressione, possiamo dire proprio un'aggressione fisica ai danni di due studenti e due migranti del PRC di Ostia, del circolo di Ostia, che nell'ambito dell'inaugurazione di una targa commemorativa al neofascista Alberto Giaquinto, mentre queste quattro persone si recavano all'appuntamento che era stato lanciato per effettuare un presidio, ma diciamo, data la furbizia e l'astuzia dell'amministrazione che ha annunciato solamente 2 giorni prima l'inaugurazione a questo neofascista, non è stato potuto organizzare insomma, un presidio o comunque una risposta antifascista di massa, per cui queste quattro persone si stavano appunto accingendo ad andare all'appuntamento che era stato dato anche per contarsi, per vedere se era possibile effettuare delle azioni di tipo antifascista. E passando vicino al presidio sono stati aggrediti da una ventina di migranti di Casa Pound, da cui è stato riconosciuto anche il portavoce del litorale. Che li hanno spintonati, ci sono stati dei tentativi di cascate, minacce verbali, fino a quando non è intervenuta la polizia, chiaramente permettendo ai neofascisti di rientrare dentro il presidio, identificando i quattro compagni che hanno subito l'aggressione. Ho capito, e quindi insomma, come al solito poi scaltro insomma, le forze dell'ordine a chiedere subito l'identificazione dei compagni. Che segno ha lasciato questa situazione di ieri? C'è comunque la volontà magari di rispondere nel corso dei giorni successivi? Adesso stiamo vedendo, insomma, ci stiamo occupando adesso di raccontare quello che è successo veramente, perché sia i media che l'amministrazione raccontano di un presunto scontro tra due gruppi di opposti, insomma, estremismi, mentre noi ci teniamo a raccontare la verità riguardo a questo fatto. Non c'erano due gruppi, non c'erano. Non c'è stato nessuno scontro tra due gruppi, ma c'è stata un'aggressione fascista che è partita da dentro il presidio, per cui sicuramente continueremo la nostra azione antifascista sul territorio e da notare insomma, che questi personaggi, che è rimasto solamente il culto dei morti, ma non hanno nessun altro tipo di spazio o di agibilità politica sul territorio, si ritrovano vecchi camerati e nuovi camerati a commemorare i morti. E finisce lì, quindi sicuramente la nostra azione antifascista continuerà su questo territorio e adesso stiamo valutando insomma come riprendere su questo tema. Eh beh, certo, questo processo insomma, di modernizzazione e svecchiamento dai valori nostalgici di fatto insomma, proprio non pare essere riuscito da parte di alcuni settori insomma, dell'estremismo di destra. E proprio negli ultimi giorni abbiamo assistito a un crescendo di iniziative e commemorazioni di questo tipo. Evidentemente appunto, gli è rimasto questo da fare, in questo trovano anche chi gli spalleggia, perché così come è accaduto a Roma qualche giorno fa, anche ieri una serie di tromboni istituzionali non hanno fatto mancare la loro presenza a questo tentativo di di commemorazione, no? Sì, dobbiamo dire che per esempio su questo territorio c'è anche una predisposizione dei partiti, diciamo, se così possiamo dire, d'opposizione a mettere sullo stesso piano giovani neofascisti che vengono uccisi in scontri a fuoco, a compagni assassinati in questa città, per cui è chiaramente un concetto che rigettiamo, cioè non sono assolutamente sullo stesso livello, non hanno assolutamente lo stesso valore chi è morto stroncando la libertà come sono le esperienze dei neofascisti morti negli anni 70 e chi invece è morto appunto sotto le squadracce fasciste, sotto l'ignoranza e l'odio che questi personaggi mettono nella città. Noi questo è un concetto che rigettiamo completamente, per noi non sono la stessa cosa e lo diciamo chiaramente sia ai partiti di opposizione che ai partiti di maggioranza che vorrebbero equiparare queste due realtà. Assolutamente, in un momento politico, storico, tra l'altro, in cui la propaganda del razzismo istituzionale purtroppo riesce a fare breccia presso strati sociali, in una situazione chiaramente di crisi economica e dunque la più conveniente per la guerra tra poveri nelle classi subalterne, da questo punto di vista, insomma, come non sottolineare la stridente contraddizione, ad esempio, da parte negli atteggiamenti del sindaco Alemanno, che da una parte, ad esempio, piange lacrime di coccodrillo per, ad esempio, no, le vittime della sparatoria a Torpignattara, dall'altro però non fa mancare il suo appoggio alle commemorazioni dei camerati. Va bene, David, ti ringraziamo per le notizie che ci hai fornito e niente, alla prossima. Grazie a voi, alla prossima. Ciao, ciao, grazie. Ciao.